da su. Si non ti sei accorto con che uno ti c'ha, la gente che ti guarda se la fotte lì. Ma non è come brutta sta comare lì. E allora qui, tieni la mente, per chi non si fa male riesce a nasa a me. E si pierda la pacienza su un guai e mo. E allora che ci fa, e allora che ci fa, hey! Se non ti sei accorto con che uno ti c'ha, la gente che ti guarda se ne fotte niente. Ma non è come brutta sta comare niente. E allora qui, lieva d'ananza, stanotte a giurmuto senza male panza. Con cose di magnate che ti ha fatta ma tenga televisione 36 canali. Si parla notte insieme soltanto a capelli. Ma quando scimma fuori sarà primavera. Ma quando scimma fuori sarà primavera. Ma quando scimma fuori sarà primavera. Primavera. Primavera, primavera. Primavera.